Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie e l'attualità attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione infatti mette gli altri animali in prima posizione rispetto a ogni tipo di dibattito. Cerchiamo gli altri animali nelle notizie di attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e altro ancora. Nella puntata di oggi, che è la numero 672, parleremo di lupi, i magnifici selvatici, la cui protezione però è sempre più fragile, anche grazie alla passione per l'ippica di persone come la signora von der Leyen. Parleremo di uno degli ultimi allevamenti di visoni italiani che chiude, ma che lo fa con una strage inaccettabile. Vi spiegheremo poi perché pensiamo che se il Brasile ha perso ai mondiali non è certo stata colpa del gatto. Parleremo poi del destino dei leoni sulla scrivania del presidente americano Biden. E infine vi proponiamo una storia positiva. Torna a casa Bambi, un'eccezione alla corretta regola di separazione tra animali selvatici e animali umani. Non mancherà una ricetta vegana a tema e tanta ottima musica. Tutto questo a cura del nostro eclettico Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriositi. Per il nostro viaggio di oggi da un argomento che ci preoccupa non da ora, bensì da quando i lupi selvatici, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, dopo aver toccato l'estinzione, finalmente sono stati degnamente protetti da una legge che li rende non cacciabili e sono tornati a popolare boschi e foreste. La rinnovata presenza dei lupi fa gioire le persone come noi, ma anche i naturalisti e chiunque abbia un minimo di razionalità, perché sappiamo che la presenza dei selvatici è un indicatore positivo sulla salute del territorio ed è molto meglio che si occupino loro, cioè i lupi, del controllo numerico degli ungulati, visto che si nutrono principalmente di piccoli cinghiali e altri animali. I lupi in sostanza rendono superflua la caccia o comunque vanificano l'argomento secondo il quale la caccia sarebbe un regolatore numerico dei selvatici. I lupi non hanno mai attaccato l'uomo, non esistono evidenze di persone uccise da lupi, mentre ogni anno i fucili da caccia mietono vite tra cacciatori stessi e tra civili cittadini disarmati che avevano la sola colpa di trovarsi sulla traiettoria di quei proiettili. Possiamo dunque dire che i cacciatori hanno forse un conflitto di interessi con i lupi. Inoltre ci sono alcuni piccoli allevatori che insistono a non dotarsi di adeguati recinti e cani da guardania. Sono pratiche che notoriamente proteggono gli animali allevati all'aperto dagli attacchi dei lupi. Si sa, i lupi sono carnivori e la loro occupazione principale è quella di cercare nutrimento, dunque non gli si può fare una colpa se attaccano greggi o singoli animali lasciati più o meno incustoditi. Negli ultimi giorni si susseguono nei media segnalazioni di lupi solitari o in piccoli branchi che si sono fatti vedere a bassa quota. Escono dai boschi, si avvicinano alle città, sono affamati, puntano agli animali domestici o di allevamento, arrivando anche molto vicino all'uomo. Affermano questo in modo un po' sibillino e inquietante alcuni giornali. A ogni apparizione dei lupi, infatti, seguono scene isteriche di panico ingiustificato perché esistono protocolli, modi di comportarsi, basterebbero alcuni accorgimenti per evitare ogni rischio. Nella provincia di Piacenza, per esempio, in media affermano nei giorni scorsi che decine di cani da caccia siano stati sbranati. Ci si chiede dove venissero custoditi tali cani, saranno i soliti cani che vengono lasciati all'addiaccio, che non vengono fatti entrare in casa o che vengono abbandonati nei boschi dopo le battute di caccia. Per l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, non esiste un'emergenza. Secondo le stime dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la popolazione di lupi che vivono sul territorio nazionale non arriva a raggiungere i 3.400 esemplari. Sono numeri piccoli, che significano che in Italia c'è di fatto un lupo ogni 88,5 km quadrati, uno ogni 44 km quadrati se si considerano soltanto gli areali dove la specie è effettivamente presente, cioè soprattutto lungo la dorsale appenninica, dove si concentra la maggior parte della loro popolazione. Secondo i membri del comprensorio alpino della Bassa Val di Susa e Val Sangone, tuttavia, così non si può continuare. E l'argomento sarebbe che i lupi, non trovando più prede selvatiche a disposizione, potrebbero rivolgersi a un altro tipo di carne, cioè, attenzione, l'uomo, ignorando completamente il fatto che il lupo è un animale schivo, elusivo e che, come ogni selvatico, ha giustamente terrore della nostra specie. Tutti questi irrazionali attacchi ai lupi, tuttavia, non ci fanno stare tranquilli. Abbiamo la sensazione che prima o poi queste pressioni, anche se ingiustificate scientificamente, potrebbero essere accolte e potrebbe essere autorizzato un allentamento della protezione del lupo. Questo sarebbe un disastro da ogni punto di vista, sia dal punto di vista ecologico che etico. A proposito di lupi, a livello europeo arrivano notizie sempre più inquietanti. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera inviata da alcuni eurodeputati tedeschi, tutti membri della CDU, entra a gamba tesa nel dibattito europeo sulla conservazione delle specie e la cosiddetta direttiva Habitat, che riguarda la protezione europea dei lupi. Una materia che non è propriamente la sua e che andrebbe fatta discutere da naturalisti e biologi con dati scientifici alla mano. Ma il movente c'è. Ed è totalmente privato. Lo scorso settembre, infatti, nella tenuta della famiglia von der Leyen in Bassa Sassonia, non lontano da Hannover, è stato trovato morto Dolly, un pony di 30 anni, e i test genetici, come riporta la stampa tedesca, hanno individuato il colpevole. Sarebbe un lupo del branco di Burgdorf, autore di diverse aggressioni ad altri animali in quell'area. L'episodio, secondo la stampa teutonica, avrebbe scosso particolarmente von der Leyen, appassionata di ippica e proprietaria di un certo numero di cavalli. Se date un'occhiata in rete, troverete molte foto di Ursula e della figlia a cavallo impegnate in gare di varie specialità. Come spiega il quotidiano tedesco Stern, la tristezza ha apparentemente lasciato il posto alla determinazione. Così, nella lettera inviata da alcuni eurodeputati, la settimana scorsa von der Leyen ha invocato una deroga alle norme di protezione dei lupi, invitando gli stati membri a scegliere di testa propria, senza dare troppo retta alla direttiva Habitat. Il tema in realtà è già emerso all'Europarlamento grazie agli eurodeputati italiani di Lega e Fratelli d'Italia, che hanno richiesto una modifica alle liste delle specie protette dalla direttiva Habitat proprio per limitare i danni dei lupi. Danni tutti campati per aria, né censiti né quantificati con metodo scientifico. Continueremo a monitorare la situazione rinnovando il nostro accorato appello rivolto ai lupi, attenti all'uomo. storico allevamento di visoni di Galeata Fratelli Cassinandri non esiste più. I circa 1500 visoni che erano presenti sono stati abbattuti e portati all'incenerimento. Cala così il sipario su una struttura che è stata a lungo contestata, oggetto anche di alcuni raid animalisti, come quello clamoroso di oltre 20 anni fa, quando migliaia di animali vennero liberati nella vallata del Bidente, alimentando un aspro dibattito anche all'interno del mondo animalista. L'intervento di urgenza è stato dettato da un focolaio di SARS-CoV-2, che è stato individuato nell'allevamento che era uno degli ultimi 5 rimasti in Italia. I capi infetti erano solo 3, di cui uno risultava deceduto. Dall'inizio dell'epidemia, 1500 visoni si trovavano in un limbo dettato dall'emergenza sanitaria. Questi animali avrebbero dovuto essere utilizzati per l'avvio di un nuovo ciclo riproduttivo, cioè condannati a fare dei cuccioli che sarebbero poi divenuti pellicce. Poi però si sono verificate alcune circostanze. La prima circostanza è il temporaneo divieto alla riproduzione che era stato disposto dall'allora ministro della Salute come misura anti-Covid. La seconda circostanza è il divieto permanente all'allevamento di visoni e ogni altro animale per la produzione di pellicce, che ha messo la parola fine alla produzione italiana di 60.000 visoni l'anno circa. A causa di queste misure prese ad esclusivo beneficio della salute umana, i visoni di Galeata sono rimasti in una sorta di limbo. Non potevano essere uccisi per finalità commerciali, cioè l'ottenimento delle pellicce, né per esigenze di salute pubblica, in assenza di conclamata infezione da coronavirus, né potevano essere liberati in natura, in quanto predatori non autoctoni e potenziali propagatori del virus pandemico. Rappresentavano dunque solo un costo e si può facilmente immaginare quanto poco gli allevatori siano stati incentivati a curare il benessere di questi animali. L'allarme sui visoni partì 2 anni fa in Danimarca, che è uno dei principali produttori di questi animali da pelliccia. La Danimarca decise l'abbattimento di circa 16 milioni di capi, innescando anche una crisi politica che alla fine determinò la caduta del governo danese. Le associazioni Esseri Animali, Human Society International Europe e LAV lanciano da tempo appelli sulla necessità di vietare allevamento e commercio di pellicce in tutta l'Unione Europea e il trasferimento di almeno alcuni dei visoni ancora rinchiusi nelle gabbie degli allevamenti intensivi in strutture che garantiscano loro il miglior benessere possibile. Esiste anche una petizione che vi invitiamo a firmare. Per trovarla potete digitare nei motori di ricerca HSI fine allevamento pelliccia. Thank you. fatto il giro del mondo il video in cui, durante la conferenza stampa della nazionale brasiliana, Vinicius Junior, l'addetto stampa carioca, dopo aver accarezzato il gatto salito abusivamente sul tavolo tra i microfoni, lo agguanta e lo lancia lontano. L'autogol è stato subito evidente, per rimediare è stato coinvolto il Consiglio regionale di medicina veterinaria dello Stato di San Paolo, che ha dichiarato che in quel gesto non c'era alcun elemento che potesse definirlo come maltrattamento. Sebbene alcuni esperti sostengano che sia sbagliato prenderli per la collottola, un lembo di pelle morbida, perché lì sarebbero molto sensibili e avvertirebbero più dolore. Dopo il comunicato, il gatto è stato adottato dallo staff della nazionale brasiliana, che gli ha dato un nome beneaugurante, Hexa, che è l'ossessione dei brasiliani alla sesta Coppa del Mondo di calcio, quella che aspettano da 20 anni. Ma non c'è stato nulla da fare, il Brasile è stato battuto ed è uscito di gara. Una piccola soddisfazione ce la danno i media, i quali ci informano che alcune ONG a tutela degli animali, supportate dal Forum Nazionale per la Protezione e la Difesa degli Animali, ha intentato una causa contro la Federcalcio Verde Oro, chiedendo un risarcimento. Il gatto in realtà non è stato né ferito né ucciso, ma quel gesto, così rude, davanti alle telecamere di tutto il mondo, rappresenta un esempio negativo e danneggia la collettività. Quello che occorre fare è proprio l'opposto, promuovere cioè empatia e pacifica coesistenza. Crediamo nel carattere educativo dell'azione, dicono le ONG, e che il diritto e la dignità degli animali siano oggetto di riflessione per tutta la società. Noi, della redazione di Restiamo Animali, non pensiamo che sia opportuno ritenere che sarebbe bastata una carezza in più per regalare forse una semifinale mondiale tra Argentina e Brasile. Si tratta di superstizioni, e le superstizioni sono pericolose perché possono avallare anche terribili maltrattamenti, come quelli riservati ai gatti neri. L'eliminazione del Brasile dai mondiali, quindi, non è dovuta a una maledizione felina, ma è ormai chiaro che i gatti sono animali difesi e protetti dalla maggior parte della popolazione mondiale, ed è molto pericoloso non tenerne conto. Questo amore, però, riteniamo che debba e possa essere moltiplicato, arrivando a garantire la stessa protezione anche alle specie abusate e maltrattate come i maiali, i polli, i bovini e ogni altro essere vivente senziente. Amiamoli tutti, superando ogni privilegio di specie. Per la prossima notizia andiamo negli Stati Uniti, dove è stato fatto un grande passo in avanti per il benessere e la conservazione dei grandi felini. Il Congresso federale degli Stati Uniti, infatti, ha approvato il Big Cat Public Safety Act, cioè la legge sulla sicurezza pubblica dei grandi felini, che si trova ora sulla scrivania del presidente americano Biden per la firma. È un provvedimento che imporrà limiti stringenti alla proprietà privata di felini di grandi dimensioni, come le tigri. Il disegno di legge diretto alla scrivania del presidente segna il culmine di una iniziativa bipartisan promossa tra gli altri da Carole Baskin, imprenditrice, attivista, fondatrice e amministratrice delegata di Big Cat Rescue, un'oasi per felini che si trova nella Florida, resa molto famosa dalla serie televisiva di Netflix Tiger King. Per me questa lotta per i grandi felini non è mai stata personale, sostiene Baskin. Si è sempre trattato di sviluppare una politica nazionale che arrestasse il commercio di questi animali come oggetti di scena pubblicitari e come animali domestici in giardini e seminterrati. Il disegno di legge limiterà il possesso dei felini di grandi dimensioni a santuari per la fauna selvatica, università statali e zoo certificati. Proibirà la riproduzione dei grandi felini da parte di privati non certificati e introdurrà nuove misure di sicurezza per l'esposizione pubblica di questa tipologia di animali. Ricordiamo che nel centro faunistico di Monte Adone in Italia, che abbiamo visitato qualche anno fa per alcune interviste, vedemmo con i nostri occhi grandi felini che erano stati sequestrati nelle spiagge dell'Emilia Romagna, dove venivano utilizzati per scattare foto a pagamento ai turisti. Tutt'oggi, purtroppo, in tanti film e troppe pubblicità, vediamo animali selvatici sfruttati. Tutto questo deve diventare passato e siamo già in enorme ritardo. Nessuno restituirà a quei poveri prigionieri a vita la libertà alla quale avrebbero avuto diritto. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni chiedendogli una ricetta cruelty free ispirata agli Stati Uniti in onore al passo avanti recentemente compiuto nella gestione dei grandi felini. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta un nesso? Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dedichiamo agli USA la ricetta di questa puntata e, come direbbe Jules di Pulp Fiction, vi racconto la colonna portante di ogni colazione vitaminica. Nel film l'iconico personaggio di Samuel Jackson si riferiva ai burger, io invece agli altrettanto famosi pancakes. Gli ingredienti per 4 persone per i pancakes con sciroppo di acero sono 200 ml di acqua, 20 g di zucchero di canna, 200 g di farina tipo 0, 10 ml di olio di semi di girasole, un pizzico di cannella in polvere, della noce moscata, un pizzico di sale, 8 g di crema or tartaro, un pizzico di bicarbonato, qualche goccia di aceto di mele o succo di limone, dello sciroppo d'acero, frutta fresca, panna vegetale e foglie di menta fresca. In una bowl unite l'acqua, l'olio, lo zucchero di canna, la farina, la cannella, una grattugiata di noce moscata, un pizzico di sale e il crema or tartaro. Mescolate con una frusta fino ad amalgamare bene il tutto e ottenere un impasto liscio e cremoso. Fate scaldare una padella antiaderente e spennellata di olio. Aggiungete all'impasto il bicarbonato e sopra di esso fate cadere qualche goccia di aceto di mele. Vedrete che si formeranno delle bollicine e allora mescolate il tutto un'ultima volta. Versate un cucchiaio di impasto nella padella calda. Fate cuocere da entrambi i lati fino a quando i pancakes avranno preso un bel colore nocciola. Impilate i pancakes nei piatti, dovrete realizzare una bella torretta per ogni commensale. Guarnite con della frutta fresca, irrorate con lo sciroppo di acero e accompagnate con una cucchiaiata di panna vegetale montata e una fogliolina di menta fresca. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Thank you. chiudere questa puntata con una bella storia di amicizia, accudimento e affetto tra animali. Un animale umano e un animale non umano selvatico. Si tratta di una storia che sembra avviata a un lieto fine. È quella tra Bambi, un cervo, e il suo papà adottivo in Valmalenco, provincia di Sondrio. La foto è inequivocabile. Il cervo, seppur gigantesco, sta letteralmente abbracciando un uomo, le zampe anteriori attorno al suo collo. Non è una posa, non è in alcun modo un comportamento forzato. L'attaccamento c'è ed è reale e spontaneo. Può capitare quando si imprinta un animale selvatico, ovvero quando lo si tiene con noi, lo si nutre e lo si accudisce in casa. Non si dovrebbe mai fare, e ci sono anche multe molto salate da pagare se si viene beccati. Ma ci sono delle eccezioni, e questa è una di quelle. Il cittadino lombardo Giovanni del Zoppo, il 28 giugno del 2020, trovò un cerbiatto abbandonato nel bosco. Attese per verificare se la madre tornava a nutrirlo, e dopo aver constatato che era davvero stato abbandonato, decise di portarlo a casa e di allevarlo con l'aiuto delle sue capre. È accaduto a Chiesa, in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Bambi, così battezzato dalla nipotina del signor Giovanni, è poi cresciuto vivendo tra le capre e la famiglia del zoppo per 2 anni, diventando un gigantesco cervo sano e attaccatissimo alla sua famiglia di umani. Con immenso dispiacere di tutta la famiglia, però, l'estate scorsa, la polizia provinciale di Sondrio ha dovuto disporre il sequestro dell'animale per trasferirlo in una struttura protetta, seguendo le norme vigenti che non prevedono l'adozione degli ungulati. Ma la storia non si è conclusa così. Il signor del zoppo non si è dato per vinto, ha chiesto come poter fare per continuare a vivere accanto al cervo, e alla fine una soluzione è stata trovata. Con l'aiuto degli amici e di un comitato sorto per aiutare il cervo a tornare dalla sua famiglia adottiva, è stato raccolto il materiale per recintare un'area protetta di 7.000 metri quadri. L'idea è quella di trasformare l'area recintata in una sorta di oasi faunistica, dove Bambi potrà avere anche la compagnia di una femmina e mettere su famiglia. Il signor del zoppo potrà così continuare ad andare a trovare il suo amico cervo. Le autorizzazioni da parte della provincia di Sondrio sono già arrivate. Comune e ATS faranno le verifiche per controllare che tutto sia conforme. E così Bambi potrà tornare a casa. Ci raccomandiamo però, i cerbiatti che trovate non sono abbandonati, sono animali che vengono accuditi dalla madre, la quale si allontana solo per nutrirsi e poi torna a cercarli. Prelevare questi cerbiatti dal loro habitat è un danno enorme per il cucciolo, per la madre, per il normale equilibrio della vita delle specie selvatiche e un peso per tutti quei centri faunistici che poi dovranno farsene carico. Quindi non toccateli, allontanatevi e lasciate che sia la madre a occuparsi di loro. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 673 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.